Il genitore musulmano e gli educatori musulmani, quando la funzione educativa passa dalla famiglia alla scuola, devono trattare amorevolmente il bambino e devono svolgere la loro attività pedagogica calibrandola alle capacità di comprensione della stessa da parte di lui e dosando gli insegnamenti educativi in modo equilibrato, onde ottenere uno sviluppo armonioso della sua personalità. Dopo l'adolescenza, l'individuo diventa soggetto di responsabilità ed è questo il momento nel quale i genitori e gli educatori devono instaurare un confidenziale rapporto di amicizia con i propri figli, i primi, e i loro allievi, i secondi. Nella sura di Luqman sono contenute le direttive coraniche per la prima educazione dei figli. La finalità dell'insegnamento islamico è quella di conseguire la scienza attraverso la ricerca. Il sapere è molto importante perché dà la capacità di distinguere il bene dal male. Oltre all'obiettivo di dare all'uomo la consapevolezza che nessuno ha titolo di essere padrone dell'uomo, tranne Allah subhanahu wa ta'ala, l'insegnamento islamico ne ha un altro, che è quello di promuovere la condizione umana attraverso l'arricchimento della spiritualità, la riflessione, la continua ricerca del sapere.